Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Ulrico Carlo Oebli. Una vita tra i libri. Di Michela Daghini. Bentrovati, oggi incontriamo una figura storica dell'editoria che è Ulrico Carlo Oebli per scoprire cosa c'è dietro la celebre casa editrice e libreria milanese che è grande come un bookstore ma ha conservato qualcosa della vecchia bottega. Ancora oggi infatti Oebli resta un marchio dietro cui continua a esserci un imprenditore editore. La libreria Oebli che con i 500.000 volumi e i 2 chilometri di scaffali del Grande Emporio nel centro di Milano è una delle più grandi d'Europa, conserva lo spirito del suo fondatore che nel 1870 sbarcò nel capoluogo lombardo, centro della nascente industria libraria dei Sonzogno e dei Treves, portando la cultura positivistica, entusiasta della tecnica e contribuendo a scrivere uno dei capitoli più luminosi nella storia dell'editoria italiana. Legandosi agli ambienti dell'Istituto Tecnico Superiore, che sarebbe diventato poi il Politecnico di Milano, e delle altre istituzioni scientifiche milanesi, il libraio editore concepì un'importante operazione culturale che era quella di rimediare alla povertà dell'editoria scientifico-tecnica italiana, creando una collana di testi agili destinati ai quadri tecnici dei quali lo sviluppo economico faceva intravedere un bisogno crescente. E dopo la sua morte nel 1935 gli eredi hanno portato avanti l'editrice come la libreria, confermandosi punto di riferimento della borghesia colta milanese che poteva trovare su quegli scaffali sia testi che preziosi libri di antiquariato. E adesso prosegue la sua felice storia, affidata alla conduzione familiare, portata avanti assieme a un pool di fidati collaboratori. E a Ulrico Carlo Oebli chiediamo di raccontarci questa avventura iniziata 4 generazioni fa da Ulrico Oebli, detto affettuosamente Lavo. L'avventura dell'azienda è iniziata nel 1838. Era una piccola libreria, 15 metri quadrati, abbiamo tutto in archivio, si vendevano spartiti musicali, c'era la Scala vicino. La grande avventura di Oebli è che dopo essere stato a Zurigo, a Bratislava, a Trieste, ha avuto la grande intuizione che l'avvenire era Milano. Quali aspetti della sua figura e della sua attività conserva con maggiore intensità? Lo slancio verso il futuro. Io sono sempre commosso che il nostro avo ha avuto un tal senso del futuro dell'azienda di famiglia. E il successo per Ulrico Oebli, il fondatore, arrivò piuttosto immediato e evidentemente aveva doti imprenditoriali innate, tanto da diventare l'editore della Casa Reale, pur essendo svizzero e repubblicano, e l'editore del Vaticano, pur essendo protestante. È stato un evento singolare. Beh, è il vantaggio dello straniero, del metec. Lui era l'ultimo di 7 figli, una famiglia relativamente benestante, ma non ricca, della Turgovia, di Frauenfeld, e allora emigrò per cercare un lavoro. E aveva il vantaggio di essere appunto uno che arrivava a Milano con un patrimonio di conoscenze che a Milano era in parte ignoto, l'editoria scientifico-tecnica. Poi era una persona molto intelligente che lavorava molto e poi si è appassionato all'ambiente. L'ambiente era il Regno d'Italia, era il papato. Ecco, lei ha citato la letteratura scientifico-tecnica e la manualistica, infatti il manuale è una parola chiave dell'editoria Oebli perché è una collana che ha segnato davvero un'epoca e una rivoluzione nella cultura dell'editoria. Sì, Oebli prese, molto intelligente e attento, prese questo nome di manuali dagli handbook inglesi, era stato a Londra, aveva capito, e ha introdotto in Italia la letteratura scientifico-tecnica che è stata poi il grande filone su cui noi ci siamo sviluppati ancora oggi. C'è qualche titolo particolarmente significativo? So che ci sono delle edizioni storiche, c'è un titolo arrivato addirittura all'84esima edizione, davvero un fenomeno editoriale. Ci sono dei titoli significativi, il primo titolo è il manuale dei verbi irregolari francesi, poi c'è nel 1876 il famoso manuale dell'ingegnere, ma poi ci sono dei manuali anche molto divertenti e buffi, non so, mio padre citava sempre il manuale delle yucche, ma sono delle strane piante equatoriali che dovevano, non so, avere un grande successo nel futuro in Europa. Naturalmente il libro non si è quasi venduto. Ecco, abbiamo citato il celebre manuale dell'ingegnere, la pubblicazione più fortunata della casa editrice Oebli e Bibbia per generazioni di ingegneri, oggi alla sua 84esima edizione. Ne proponiamo un passaggio allora dalla prefazione dall'edizione del 1939. La nuova edizione del manuale dell'ingegnere del nostro insigne maestro, ingegner Giuseppe Colombo, viene pubblicata a 6 anni dalla precedente. È stato necessario ritoccare ed ampliare alquanto quasi tutte le parti, nonché ricompilarne interamente qualcuna. Ci siamo ancora studiati di assolvere con attenta cura il mandato lusinghiero e gradito, di cui il maestro ci aveva onorato nel 1917, quando, presentando l'edizione che cominciava con la 100.000ª copia, incaricava noi, insieme al collega Guido Semenza, come suoi continuatori della cura delle seguenti edizioni. Anche alla presente hanno portato il contributo della loro esperienza numerosi colleghi d'ogni regione d'Italia, così che il libro riafferma la sua impronta nazionale. Gli ingegneri italiani vorranno ancora, ne siamo certi, contribuire al perfezionamento di un'opera utile per lo sviluppo tecnico del nostro amato paese. Le loro osservazioni saranno sempre da noi considerate con animo grato. Ulrico Oepli, il fondatore, si distinse anche per le numerose donazioni, contribuì molto allo sviluppo culturale attraverso donazioni. Si dice anche che abbia pagato in contanti il palazzo che poi è divenuto il planetario, che è stato poi donato alla città Milano che amava molto. La cosa è verissima, perché 3 anni fa sono stato a Jena alla Carl Zeiss, c'è ancora lì l'ordine di Ulrico Oepli, che nel 1929 ordina un planetario, pagamento immediato, cash, e così fu. È rimasto nella grande azienda ottica Zeiss Icon di Jena, tornata a Jena dopo la riunificazione della Germania. Leggendaria questa cosa. Ci teniamo molto al planetario di Milano e ci auguriamo che adesso possa avere un grande avvenire, specialmente usando tutte le novità straordinarie che ci aspettiamo noi milanesi dalla Expo 2015. Ha fatto anche numerose donazioni in Svizzera, c'è una fondazione che porta il suo nome ancora oggi. Sì, c'è una fondazione a Zurigo, la Hoepli Stiftung, è una fondazione di tipo culturale e di aiuti alle persone in difficoltà. È sempre molto piacevole scoprire in Svizzera che c'è una casa per anziani che ha avuto un contributo dalla fondazione, oppure scoprire in qualche cantone sperduto, ignoto, ci sono cantoni svizzeri piccolissimi dove hanno fatto una pubblicazione culturale che è stata sostenuta dalla fondazione Oepli. Quale eredità le ha lasciato Ulrico Oepli nella filosofia aziendale? È quella di andare avanti e di occuparsi di libri, non lasciarsi distrarre, cioè essere, noi vogliamo essere degli editori di libri. Naturalmente quando oggi si dice libro si dice anche elettronica, mercato internet, pubblicare con lo schermo elettronico, pubblicare sulla TV, pubblicare non so, sui vari apparati elettronici che ognuno di noi ormai ha i palmari. Cosa la diverte di più di questo lavoro? Cosa le è piaciuto maggiormente nel percorso che ha portato avanti fino ad oggi? Ma la cosa che mi piace di più è vedere un libro che nasce, e poi lavorare con delle persone parlando di libri è sempre molto piacevole e appassionante. Ecco, qual è il percorso di un libro? Come nasce un libro? Ma un libro nasce perché fortunatamente ormai siamo qui da un po' di anni, allora ci sono delle persone che vengono a trovarci e dicono vogliamo fare un libro, oppure succede che noi cerchiamo qualcuno che scriva un libro perché sappiamo che c'è un argomento che appassiona, non so, adesso il cinese interessa molto e cerchiamo gente che possa scrivere un bel libro di cinese per gli italiani. E visto che ha citato il cinese, un settore che va molto forte adesso sono proprio i dizionari e le pubblicazioni che riguardano appunto le lingue straniere. Una conseguenza della globalizzazione, evidentemente, è anche un segno forte dei tempi. Questi libri che abbiamo sotto gli occhi ne sono l'esempio. C'è il cinese per gli italiani, un corso avanzato con tanto di CD. C'è anche l'hindi, c'è il giapponese, il rumeno. Sì, questo è stato un po' anche nella tradizione nostra. Ulrico Oepli arrivando, poi mio padre per esempio amava molto le lingue, mio nonno è nato a Lione. Oggigiorno c'è questo grande privilegio, è nato l'euro, le frontiere europee si sono aperte, e il mondo è globale, tutti guardano la CNN e loro le lingue sono fondamentali. Di 在意大利的大城市里，很多人上下班靠公共汽车和地铁。 E questo era un breve estratto dal corso di cinese della Oepli, un libro e un CD. Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Ben ritrovati da Michela Daghini, siamo sempre in compagnia di Ulrico Carlo Oepli, anima storica della omonima casa editrice. Abbiamo parlato delle nuove pubblicazioni dedicate alle lingue straniere. Se lo sarebbe mai aspettato il fondatore, il bisnonno, che la Oepli sarebbe arrivata a pubblicare addirittura corsi di cinese, di hindi, di albanese, di polacco? Ma il fondatore secondo me se l'aspettava, perché essendo uno molto intelligente che guardava lontano, looking forward, diceva sempre mio babbo, lui sapeva benissimo che nel 2010 si pubblicava il dizionario rumeno, sì, perché vedeva lontano. Vedo anche il giapponese in cucina. Sì, il giapponese in cucina, perché ormai, appunto, avendo una figlia che gli piace mangiare il sushi, ho dovuto fare questo libro. Come funziona un'azienda a conduzione familiare come la vostra? Come siete organizzati? Quali sono le dinamiche che muovono la Oepli vista, diciamo così, da dietro le quinte? Ma le dinamiche reali sono che bisogna continuamente avere un contatto 24 ore su 24. In questo ci aiuta molto la moderna tecnologia, cioè gli sms, il computer e così via, il telefono. Poi di fatto abbiamo anche delle riunioni, come dire, formali, una volta alla settimana, in cui ci si vede e si parla. E poi soprattutto si fa il mestiere più importante, quello dell'editore, che è quello di inventare dei libri. Cioè, parliamo dell'invenzione dei libri, in questo devo dire tutti quanti, abbiamo un ottimo direttore editoriale, un ottimo direttore generale, ma tutti quanti insieme si fa il lavoro di fantasia e di invenzione. Come nasce un libro? E beh, ci si sveglia il mattino e viene in mente un libro. Naturalmente tutto questo nasce perché uno è curioso, ascolta, guarda, legge, ascolta anche Radio 24. Uno degli ultimi libri che vi siete inventati? Uno degli ultimi libri che siamo inventati è quello, perché poi alla fine siamo anche dei milanesi, no? Il Naviglio di Milano, di Empio Malara. Oppure abbiamo inventato questo libro su Milano, anzi parla della Lombardia, qualcosa di più grande. Questo libro di Franco Brevini, Voci di Lombardia. Scrittore, dialetti, luoghi e tradizioni dalla A alla Z in Lombardia. E naturalmente questi libri così, come dire, quasi facili da leggere, sono accompagnati continuamente da dei libri molto scientifico-tecnici, che continuiamo ad aggiornare. Ma come avviene una riunione vostra? Uno porta un'idea, la si sviluppa assieme, la si discute? Sì, avviene così. Naturalmente, essendo i miei figli ancora abbastanza giovani, oscillano tra i 37 anni mia figlia e i 43 del mio figlio maggiore e i 40 di Matteo, che si occupa dell'internet, la discussione spesso è abbastanza, per me, quasi troppo vivace. Io naturalmente quando parlo di queste riunioni vorrei quelle riunioni meravigliose di cui si legge, poi forse non sono vere, che avvengono invece nei conventi tra studiosi, dove regna solo l'erudizione, il silenzio, e invece le nostre riunioni sono abbastanza, sono sonore. Dunque, pro e contro di una conduzione familiare. Ah, i pro sono la velocità, la presenza continua, anche una certa passione che si instaura, perché poi alla fine è una gara essere tutti appassionati di questo lavoro. Noi siamo privilegiati perché lavorare sui libri, il libro è qualcosa di speciale, poi siamo privilegiati perché abbiamo dei collaboratori, anche loro, che hanno altrettanta passione, per cui si crea automaticamente un ambiente abbastanza omogeneo. I contro sono quando la discussione familiare rischia di degenerare. Ecco, e poi naturalmente attorno alla conduzione familiare c'è tutta una squadra di editor, di collaboratori fidati che lavorano con voi. Sì, attorno alla nostra conduzione familiare abbiamo i nostri bravissimi, con cui abbiamo un rapporto molto intenso, ci si vede tutti i giorni, i nostri collaboratori, i nostri editor, il nostro direttore editoriale, il nostro direttore commerciale, e poi molto importante per noi sono i nostri librai, perché loro vivono giorno per giorno la realtà del contatto tra chi legge e il libro. E in questo è stata la genialità di Oepli, che vuole sempre tenere unita un'importante libreria in una città importante come Milano e una casa editrice. Questo ci dà una sensibilità quotidiana su come fare e che tipo di libri fare. Una parte molto importante dell'azienda Oepli oggi è Oepli.it, che ha avuto uno sviluppo incredibile, molto forte negli ultimi 3-4 anni. Sì, lì c'è il segnale, prima di tutto, che mio figlio, dopo un'esperienza importante in banca, sia a New York che a Londra, è venuto con noi a lavorare in azienda e si è molto appassionato a tutto quello che è elettronica, vendita internet e così via. Devo dire molto grazie a lui e grazie anche ai tempi. L'Italia era aveva un po' da inseguire il traguardo delle vendite internet. Lo sviluppo dell'internet per la libreria, per la nostra attività libraria è importantissimo, è vitale. E poi c'è un forum frequentatissimo. Sì, beh, poi dopo, in questo noi avevamo già il vantaggio di essere una curiosa azienda editoriale libraria, siamo rimasti sempre molto fedeli a questa formula, che è la formula del nostro successo. Con l'internet, avendo di minuto in minuto la situazione, si ha di minuto in minuto anche, stando molto attenti, l'ispirazione. Ecco, una libreria di Milano che diventa libreria del mondo, ha detto. E tra l'altro la libreria dove ci troviamo adesso, 6 piani, qui a Milano, nella via Ulrico Oepli, è una delle più grandi d'Europa oggi. Sì, è una bella libreria, è su 6 piani, ogni piano è come se fosse una libreria a sé, specializzata in un certo settore, i libri vari, i romanzi, la letteratura di viaggio, il scientifico-tecnico, le banche, le lingue, la filosofia, il cinema. La libreria ha rappresentato negli anni anche un punto di incontro, di riferimento per Milano. Beh, lo è tuttora e lo sarà sempre di più in futuro. È una libreria, è un po' diversa dalle grandi librerie. A Milano è piena di ottime librerie, dei nostri amici Feltrinelli e altri. La nostra è una libreria specializzata, di settore. Di conseguenza, non so, i filosofi hanno piacere a incontrarsi nel nostro reparto filosofia. Chi fa cinema oppure l'ingegnere, gli piace molto andare nel reparto ingegneria e lì si trova con i suoi colleghi. Siamo una libreria appunto di specializzazione. Della via che porta il nome della casa di famiglia. Sì, la libreria è in via Oepli. Per arrivare a questo miracolo di avere una libreria Oepli in via Oepli ci sono voluti molti anni, ci è voluta la guerra, ci è voluto Ulrico Oepli che ha donato alla città di Milano un planetario. E poi c'è stato mio padre, molto geniale e straordinario, che ha costruito questa bella libreria con gli architetti Figini e Pollini. Accanto a un meraviglioso edificio fatto invece da BPR, da Belgioioso, Peressutti e Rogers, per cui c'è una combinazione architettonica che poi si unisce alla chiesa di San Fedele, che invece è di un architetto precedente ma molto bravo, che è il Tibaldi, arriviamo al 1600. E nella storia della casa editrice Oepli c'è anche un fatto storico che riguarda la figura di Mussolini. Sì, c'è anche un fatto storico, drammatico, triste, tragico. La fiducia che Mussolini aveva nell'editore Oepli, Mussolini ebbe appunto i contatti editoriali, li ebbe poi molto con mio nonno Carlo, pur non essendoci nessun aspetto politico della vicenda, ma un aspetto molto professionale. Questa fiducia era tale per cui quando Mussolini era a Salò, non sapeva come trovare un mezzo di comunicazione per salvare la propria famiglia e mandarla in Svizzera, e allora ebbe un incontro, tutto documentato negli archivi, ormai di queste cose storiche se ne può parlare tranquillamente, ebbe un incontro con Carlo Oepli, mio nonno, per poter avere una comunicazione con il governo svizzero e poter far scappare la sua famiglia in Svizzera. Benché la famiglia Oepli storicamente non sia mai stata politicamente vicina alla figura di Mussolini. Beh, essendo noi, avendo anche la fortuna di essere degli editori scientifico-tecnici, per noi è abbastanza facile essere dei bravi cittadini. Cosa le è piaciuto e cosa ama maggiormente del suo lavoro? Fare i libri, incontrare le persone, inventare. Cosa non rifarebbe, se c'è qualcosa che non rifarebbe, o cosa le è mancato guardando indietro? Ma non rifarei. Certe volte mi è forse mancata la forza di imporre delle buone idee, sono un po' presuntuoso. E quale consiglio darebbe a chi le chiedesse il segreto della politica editoriale di Oepli negli ultimi anni, da quando è entrato nell'azienda? Quale consiglio darebbe? di rimanere molto fedeli a fare libri nel nostro settore scientifico-tecnico, a essere dei bravi, bravissimi librai a Milano, anche con l'internet. E cosa vorrebbe dicessero i suoi discendenti, i posteri, i pronipoti? Beh, che sono stato abbastanza bravo. E finisce qui la storia di Voci d'Impresa di oggi in compagnia dell'editore Ulrico Carlo Uppli. Da Michela Daghini un saluto.